La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci insieme, la rosa purpura, all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, come ogni weekend, insieme per raccontarvi tutto il cinema che c'è, ovviamente e soprattutto sul grande schermo, nelle sale cinematografiche. Settimana ricchissima, del resto si ode il rullo di tamburi di avvicinamento agli Oscar e quindi si cominciano a vedere i pezzi grossi, i calibri, quelli che portano numeri importanti di nomination. È la settimana delle Miserables, i Miserabili, che dal successo pluriennale di Broadway, del West End londinese e di tutte le grandi piazze del musical è approdato finalmente sul grande schermo sotto forma di film, di colossal direi, con la regia di Tom Hooper, con nomination 8, ben 8, tra le quali miglior attore Hugh Jackman, miglior attrice non protagonista Anne Hathaway. Insomma, capite, un cast importante, ma non è ovviamente l'unico film, anzi ce ne sono di molto importanti. Allora sentiamo insieme quali sono i temi che tratteremo durante la puntata nei nostri titoli di testa. Lo spettacolo più longevo del West End londinese, uno dei musical più popolari degli ultimi 20 anni, è Les Misérables, che dopo le 8 nomination agli Oscar arriva nelle sale italiane. Riviviamo le gesta di Jean Valjean e Javert con un cast stellare che va da Hugh Jackman a Russell Crowe, da Anne Hathaway a Sacha Baron Cohen. L'onda distruttrice dello tsunami che nel dicembre 2004 sconvolse il sud-est asiatico si infrange sul grande schermo. The Impossible racconta la storia vera di una famiglia dispersa dal maremoto e dei suoi sforzi sovrumani per ritrovarsi, con Ewan McGregor e Naomi Watts. Schwarzy è tornato. Dopo la lunga esperienza politica, Arnold Schwarzenegger è il protagonista di The Last Stand, l'ultima sfida, nei panni dello sceriffo di una sonnolenta cittadina al confine tra Arizona e Messico. Commedia d'azione riuscita e divertente, tra ironia e nostalgia. E un'altra icona dei duri di Hollywood, Bruce Willis, è protagonista di Looper, un salto nel futuro prossimo, 2044, quando il viaggio nel tempo sarà realtà, ma non legge. Ma il crimine in tema ha altre idee. Nel cast anche Emily Blunt e Joseph Gordon-Levitt. E allora, questi sono i contenuti, questo è il menu. Noi fra poco parleremo diffusamente, sentiremo anche molto a livello audio delle Miserables, ma prima vogliamo cominciare con Looper, un film targato Disney con un cast che mette insieme Bruce Willis con Joseph Gordon-Levitt, tra l'altro presente anche nel film Lincoln di Steven Spielberg, nei panni del figlio di Lincoln. Insomma, un po' il suo momento, almeno per quanto riguarda le sale italiane. Una crime story futuribile che racconta di un futuro prossimo venturo, neanche tanto lontano, il 2044, nel quale succederanno cose che forse oggi si pensano ma ancora non si fanno, o almeno noi non lo sappiamo. Sentiamo cosa ci racconta di questo film Chiara Pizzimenti. Il viaggio nel tempo non esiste ancora, ma da qui a 30 anni lo inventeranno. Quando le organizzazioni criminali del futuro devono far fuori qualcuno, lo spediscono a me nel passato. Io sono uno dei tanti killer qui nel presente, chiamati Looper. E l'unica regola che abbiamo è mai lasciar fuggire un bersaglio. Anche quando il tuo bersaglio sei tu. A parlare è Joe, killer, drogato, amante del lusso, che lavora nel presente, siamo in Kansas nel 2044, per un'organizzazione criminale del futuro. È un looper, letteralmente colui che chiude il cerchio. Si trova però di fronte a se stesso. 30 anni dopo, l'esitazione nel premere il grilletto mette in moto il film. Quindi sai già come andrà a finire? Hai già vissuto questa scena nei miei panni? Non sono qui per parlare dei viaggi nel tempo, perché se iniziamo a parlarne ci stiamo tutto il giorno e ci ritroviamo a fare diagrammi con le cannocce. Ma sappiamo come finirà questa storia. Non posso farti uscire vivo da qua dentro. Questa è la mia vita di adesso, me la sono guadagnata. Tu hai avuto la tua, quindi fai come tutti gli altri vecchi. Muori. Così si fronteggiano i due Joe, ora nel presente. Il giovane cerca di salvarsi, il vecchio vuole vendetta, eliminare chi sarà la causa del suo dolore futuro. Why in the world do Di più non si può dire, si svelerebbe troppo di questo thriller futuristico scritto e diretto da Rian Johnson. Azione e fantascienza, la Philip K. Dick. Manca l'approfondimento dei personaggi, ma la storia appassiona e gli attori non sbagliano, da Jeff Daniels, il cattivo, a Emily Blunt, oltre ai protagonisti. Il Joe presente è Joseph Gordon-Levitt, il Joe futuro Bruce Willis. Errore pensare che questi due attori non si somiglino. Una delle cose migliori è vedere Willis nel giovane Gordon-Levitt, che così ha raccontato al Comic-Con di Miami la trasformazione. I just try to internalize him, I guess, and do something that made sense to me and felt real. Ho cercato, direi, di interiorizzare e di fare qualcosa che avesse senso per me e che sembrasse reale. Ho visto tutti i suoi film a ripetizione. Ho preso l'audio dei suoi film, l'ho scaricato sull'iPod per poterlo ascoltare. Inoltre Bruce ha registrato alcune delle mie battute e ho potuto riascoltarle. Credo però di aver imparato soprattutto stando con lui. Amava evidentemente questo lavoro, questo film. Sono un suo fan fin da quando ero bambino. E questa è una delle migliori cose che ha fatto negli ultimi anni. Fantascienza originale che utilizza la macchina del tempo ma la rende illegale e in fin dei conti parla di libero arbitrio. Il termine di paragone più usato è Matrix, ma ritrovate anche Inception e Blade Runner. Il pubblico approva, pur sottolineando la complessità della storia. Tutto sommato sì, la storia è particolare, però insomma... Originale. Sì, è un bel film, devo dire. Che è molto particolare la storia e è originale comunque, come è stato creato. Non facile da seguire perché forse non abbiamo capito tutto, ma essendo una storia, diciamo, fantastica, di solito non si capisce mai tutto. La rosa purpurea. Now prisoner 24601, your time is up and your parole's begun. You know what that means. Yes, means I'm free. No. Follow to the letter your itinerary. This badge of shame will show it till you die. It warns you're a dangerous man. I stole a loaf of bread. My sister's child was close to death. We were starving. You'll starve again unless you learn the meaning of the law. Know the meaning of those 19 years. A slave of the law. 5 years for what you did. E questo è il duetto fra Jean Valjean, Hugh Jackman e Javert, Russell Crowe, che apre praticamente Les Misérables, il musical che dopo aver ottenuto successi clamorosi, essere stato il musical più longevo nella storia del West End londinese, approda sul grande schermo con 8 nomination agli Oscar, con una grande presa popolare e anche con una emotività fortissima che riesce a suscitare. Vuoi anche per un cast importante, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, abbiamo Sacha Baron Cohen, abbiamo insomma nomi importanti, Tom Hooper alla regia, il discorso del re è fatto recente, fatto sta che questi miserabili, questa edizione musical grande schermo del romanzo cardinale della lettura dell'Ottocento francese di Victor Hugo arriva anche sugli schermi italiani. Ora la storia non è facile da riepilogare, ma è abbastanza semplice da ricordare, almeno per sommi capi. 1815, Jean Valjean, prigioniero numero 24601, viene liberato dopo 19 lunghi anni di lavori forzati che lo hanno reso praticamente uno schiavo per avere rubato un tozzo di pane per sfamare il figlio di sua sorella moribondo. Ebbene, dopo la liberazione Jean Valjean cerca una riconciliazione con la vita, attraverso varie peripezie riuscirà a rifarsi una vita, a diventare sindaco di Montreuil-sur-Mer, una cittadina vicino Parigi, a diventare imprenditore, a salvare una ragazza, una giovane ragazza madre, appunto Fantine, che è ormai condannata in un certo senso dalla prostituzione, ma a salvarne la figlia, la piccola figlia Cosette, che crescerà con lui. Tutto questo accade mentre Javert, il diciamo feroce, no, forse crudele, forse neanche, integerrimo, ecco, direi integerrimo poliziotto che l'aveva condannato e che lo ha perseguito per tutto questo tempo, non ha mai mollato la presa su di lui. E allora possiamo dire che Les Misérables è un lungo, lunghissimo inseguimento sotto forma di musical. Due persone che cercano di sfuggire, una al proprio passato e di cercare di farlo dimenticare, e lo fa mettendo in campo tutto l'amore e tutta la bontà possibile. L'altro cercando di far rispettare la legge fino all'ultimo giorno, e sarà una missione, quasi un'ossessione, che lo porterà fino agli estremi rimedi. Ora, quello che succede è tutto da vedere, e poi il romanzo, come dire, è lì in perituro nella storia della letteratura. Quello che interessa in questo caso è come questo, questo spettacolo grandioso, broadwayano, londinese, sia diventato un film, come Tom Hooper abbia deciso di portarlo sul grande schermo. Allora andiamo a raccontare con 10-15 secondi di voce ciascuno i grandi protagonisti di questo musical. Abbiamo sentito il duetto Jean Valjean Javert, ovvero Hugh Jackman Russell Crowe. Sentiamo ancora il protagonista assoluto, Hugh Jackman, nominato all'Oscar come miglior attore, cantare un'altra delle arie celebri di questa, che è quasi un'opera lirica, con anche i recitativi all'interno, proprio sulla maniera del melodramma italiano, con il quale condivide tante altre cose. Dicevo, sentiamolo cantare Who Am I? Who am I? Can I condemn this man to slavery? Pretend I do not feel his agony. This innocent who bears my face, who goes to judgment in my place. Who am I? Can I conceal myself forevermore? Allora, mentre Jean Valjean si chiede chi sono io, ed è un bel chiedersi effettivamente, che anima un po' tutto il film, la piccola Cosette, salvata dall'illuminato imprenditore, figlia appunto di Fantine, interpretata da Anne Hathaway, mette insieme le note di una melodia che è diventata subito celebre. La madre, Fantine, invece intona quella che è forse la melodia più celebre del musical, Dream the Dream. I dreamed a dream in time gone by. And hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. Una volta cresciuta, la piccola Cosette troverà anche una, diciamo, rivale in amore, anche se fra le due sembra quasi esserci un filo di solidarietà che le unisce, è la figura drammatica, melodrammatica di Eponine. My pretending he's beside me. All the love I walk with him. Till morning. Without him. La voce di Samantha Barks, tra l'altro nel cast una delle rappresentanti del musical teatrale che è stato portato sulla grande schermo, non a caso la voce migliore senza dubbio di tutte. Partiamo da lì, partiamo dalle voci. Allora, cantano tutti dal vivo, ovviamente si fa più fatica con chi non è cantante professionista, e allora Hugh Jackman, che tra l'altro ha una grandissima esperienza nel musical, ha sicuramente una bella impostazione vocale, un tono così così oggettivamente, che non è che proprio renda piacevolissimo il suo cantato, ma comunque molto professionale, molto intenso, e soprattutto anche nella recitazione capace di portare il ruolo di Jean Valjean da schiavo a padrone a salvatore, fino a una sorta di figura provvidenziale per il futuro della figlia. Quindi sulla grande prova d'attore per Hugh Jackman. Russell Crowe ci mette il suo broncio, ci mette la sua intensità, ci mette anche la sua fisicità al servizio di Javert. Brava, molto brava Anne Hathaway nei panni di Fantine, anche a livello canoro. I momenti di leggerezza, di aria, perché è un musical ed è una storia molto molto intensa, molto drammatica, molto melò, e dove si piange molto più di quanto si rida, sono affidati alla coppia Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen, nei panni dei due locandieri che hanno cresciuto Cosette, cresciuto così, diciamo, la piccola Cosette, senza interessarsene molto, e a cui sono appunto affidati i momenti di maggiore leggerezza. È un film di 150 minuti, 2 ore e mezza, poderoso, un colossal sotto il profilo visivo, la regia di Tom Hooper molto attenta al campo e controcampo, soprattutto a stare sempre sulle facce di chi canta, quasi fossimo a teatro, ed è quella la situazione che ha voluto ricreare Tom Hooper, senza dimenticare però un background di spettacolo su questa Francia rivoluzionaria, post-rivoluzionaria dell'Ottocento, sulle barricate, sui tanti personaggi, grandissimi costumi, insomma uno spettacolo anche per gli occhi, ma un film da vedere soprattutto col cuore, perché è questo il taglio a cui bisogna arrivare in questi miserabili. E allora adesso giochiamo insieme, poi dopo sentiamo un esperto di musical raccontarci il passaggio dalla scena al grande schermo. Allora, prima traccia del film misterioso di oggi. Ma appena fuori sul marciapiede. Buongiorno. Oh, buongiorno. Come sta l'occhio? Benissimo, grazie, fu davvero gentile a volermi aiutare. Non ne parli neanche. Sta schiarendo, mi sembra. Sì, si mette al bello. Beh, devo proprio recarmi all'ospedale. Io devo finire le mie commissioni. Vite romanzesche le nostre. Arrivederci. A proposito di vite romanzesche, insomma, siamo andati molto indietro nel tempo con questo film in Blu-ray, La Rosa Purpurea @radio24.it, titolo, se l'avete già indovinato, e vostro indirizzo per il più bravo del sabato e della domenica, ci sarà il Blu-ray di questo film più tardi, forse oggi occorreranno davvero un altro paio di possibilità. Now prisoner 24601, your time is up and your parole's begun, you know what that means. Yes. I'm free. E la voce di Hugh Jackman e Russell Crowe ci riporta in atmosfera miserabili. Siamo in collegamento con Davide Garattini della rivista Il Musical, che saluto. Ciao Davide. Buonasera a tutti. Allora, ti abbiamo chiamato perché c'è una rivista in Italia importante, appunto, che si occupa di musical, e ci sembrava il testimonial più attrezzato anche culturalmente per raccontarci questo passaggio dalle scene, dal West End, da Broadway al grande schermo. È lo stesso spettacolo? Tradisce, riguarda, rilegge oppure cita? Cosa hai trovato e cosa si è perso e cosa si è tenuto dentro questo passaggio? Allora, direi che in sostanza è Les Misérables. In pratica chiaramente i linguaggi sono diversi. Una cosa è vedere uno spettacolo come Les Misérables a teatro, una cosa è vederlo su uno schermo. La cosa che rimane molto fedele è la parte musicale. Praticamente hanno tenuto tutte le canzoni, anzi ne hanno aggiunta una, per cui un grosso sforzo, perché comunque la musica è tanta. Chiaramente il linguaggio cinematografico è completamente diverso rispetto a quello teatrale, e ci permette un pochino di entrare un pochino sui personaggi. Come dicevi giustamente tu, la regia punta moltissimo sui primi piani e su delle particolarità ho notato che rivelano dei momenti un po' nuovi che in teatro non possiamo rivivere. Faccio un esempio: nella prima canzone di Javert, Star, dove lui comincia a farsi delle domande, comincia a dare un'impronta al suo personaggio e a delinearlo, lui cammina su un cornicione. E questo cornicione poi vedremo che ha un ruolo, ecco, diciamo che ha un ruolo, esatto, ha un ruolo. Questo in teatro non si può vedere, perché comunque nell'impianto teatrale, che è questo grosso girevole, almeno nell'impianto originale, questo grosso girevole che non dà spazio alle pause, è un continuo cambio scena, è un grosso vortice Les Misérables in teatro. Io lo consiglio a chiunque di andare a vederlo, perché solamente come impianto scenico, solamente come arrivano le barricate, uno rimane a bocca aperta. Ecco, una cosa velocissima, Davide, tu dici io lo consiglio, è uno spettacolo che potrebbe arrivare, per le tue informazioni, anche in Italia, chissà, tipo la prossima stagione, sull'onda del film, è uno spettacolo, ricordiamolo, che in Italia non si è mai visto. No, in realtà si è visto in parte, cioè l'anno scorso, quest'estate, al Teatro Comunale di Bologna c'è stata una School Ediction. Una School Ediction è una versione, tra virgolette, non dico scolastica, perché scolastica vorrebbe dire che meno, in realtà è un concedere i diritti in una forma leggermente minore, ecco, chiamiamola così. È stato portato in scena dalla Bernstein School e assolutamente hanno dimostrato che, insieme a un teatro lirico, e non è un caso che era il Teatro Comunale di Bologna, si può fare con canzoni originali, quindi in inglese. I dialoghi erano in italiano, ma i dialoghi sono pochissimi alla fine, e il pubblico l'ha accolto con entusiasmo. Hanno fatto 4 recite, tutte e 4 esaurite. E allora speriamo insomma che sia un buon viatico poi per vedere magari l'edizione diciamo londinese dalle nostre parti, anche perché poi i low cost costano poco, quindi si può anche andare. Ci vogliono i palcoscenici per portarlo, quello sì. Quindi la grossa problema, secondo me, è trovare un palcoscenico che riesca a gestire tutto questo sforzo scenografico. Speriamo che il film, come è stato ormai ultimamente negli ultimi anni, i film musicali stanno sempre tornando di più. Speriamo che possano essere un modo per portare nuovi titoli in Italia. Grazie allora a Davide Garattini, rivista Il Musical, mensile, lo ricordiamo, nelle edicole, e a risentirci con La Rosa Purpurea. Grazie, arrivederci. La Rosa Purpurea. Ancora le note di Look Down nella colonna sonora dei Miserabili, ricordo tra l'altro dal 31 gennaio già pubblicate in digitale su iTunes eccetera, e dal 5 febbraio su disco fisico, su CD fisico Universal, le bellissime canzoni della colonna sonora dei Miserabili. Noi dobbiamo farvi sentire ancora le voci dei protagonisti, con all'inizio su tutti Tom Hooper, il regista, che racconta così cos'è significato lavorare su questo materiale così malleabile che dalla scena è finito sul grande schermo. Sapevo sin dall'inizio che avrei voluto che le canzoni fossero dal vivo, ed era una cosa che volevo così fortemente che non sarei stato disposto a fare il film a meno che non l'avessimo fatto. E questo perché trovo sempre la sincronizzazione, quando si registra una canzone, per quanto sia buona, artificiale. Male che vada ti imbarazzi, altrimenti riesci a dimenticartene. E in un film leggero, in una commedia, è più facile dimenticarsene. Volevo che non ci fossero barriere tra il pubblico e quelle emozioni. Il protagonista assoluto, il protagonista principale, Hugh Jackman, racconta il suo approccio al personaggio di Jean Valjean. I was the boss. They all listened to me. Io ero il capo, dicevo a tutti cosa fare. No, credo che in qualche modo Jean Valjean debba essere il leader, ma eravamo molto uniti sul set. Tom Hooper era il nostro leader e noi semplicemente seguivamo lui tutti insieme. E questa sensazione di unione, di insieme, così forte, non l'avevo mai sentita su un set prima d'ora. Candidata all'Oscar anche Anne Hathaway come miglior attrice non protagonista, una Anne Hathaway quasi trasfigurata con i capelli corti di Fantine. Penso che ogni trasformazione fisica a cui ci si sottopone sia sempre difficile, ma non l'ho presa troppo sul serio, perché è stata una mia idea quella di tagliare i capelli, è stata una mia idea sottopormi a questo cambiamento estremo, e l'ho fatto per il mio lavoro. Molte persone invece non possono scegliere, si ammalano e perdono peso e capelli. Sceriffo, quasi non la riconoscevo in borghese. Beh, il mio giorno libero. Un weekend tranquillo. Abbiamo un'emergenza. Un trafficante con un suo esercito va verso la frontiera. C'è il rischio che passi da lì. Ho già affrontato sangue e morte. So cosa ci aspetta. Non gli permetterò di attraversare la città senza combattere. È tornato Schwarzy, è tornato Arnold Schwarzenegger, l'ultima sfida, The Last Stand, nei cinema italiani. Era una giornata normale per lo sceriffo Ray Owens, ex polizia di Los Angeles e da molto tempo ormai lì praticamente a far niente su reati che definire minori è ingigantirli, nella cittadina di Summerton al confine tra l'Arizona e il Messico. Era una giornata tranquilla fino a quando il telefono non è squillato. Dall'altra parte c'era l'FBI che ha raccontato che da quelle parti stava arrivando un pericolosissimo narcotrafficante con un suo vero e proprio esercito privato che gli apriva la strada letteralmente a suon di sfondamento di posti di blocco e altro, per permettergli di attraversare il confine proprio con il Messico e rifugiarsi nella suo paese dopo una spettacolare evasione iniziale. Lo scopo dell'FBI era quello di tenere fuori la pattuglia davvero sgarrupata di poliziotti di quartiere quasi, o quantomeno di periferia, di provincia, capitanati dallo sceriffo Ray Owens, ma siccome questo è un film con Arnold Schwarzenegger le cose non andranno così e il loro ruolo sarà fondamentale anche per liberare un ostaggio che è proprio nelle mani del pericoloso narcotrafficante. Mia nipote, la figlia grande di mia sorella, era una brava ragazza. L'ho praticamente cresciuta. Poi una notte la trovo che mi aspetta in cucina con in mano una Glock. Se non avesse esitato, avrebbero trovato il mio cervello sparso sul pavimento di marmo invece del suo. Dirige Kim Jae-won, già dietro Il buono, il matto e il cattivo, qui alle prese appunto con un film, è un bel film divertente, bello in senso di divertente, film appassionante. Ovviamente il bilancio delle vittime alla fine è super nutrito, è un bel film di 30 anni fa sostanzialmente, ma Schwarzy lo interpreta sia il suo ruolo sia il film con grande ironia, con continui riferimenti al suo presente o al suo recente passato di governatore della California, al definirsi vecchio, al definirsi arrugginito, però con una capacità iconica di calamitare l'attenzione, di mettere le mani sullo spettatore e di tenerlo lì per il bavero, che è davvero unica. Boris, io mi sono divertito tantissimo. Mi sono divertito tantissimo e devo dire che queste icone degli anni 80, fine 70, come Stallone e Schwarzenegger, hanno una capacità incredibile di fare ironia su se stessi. E diciamo la verità, non ci avremmo giurato neanche un po' quando li vedevamo giovani, arzilli e molto gonfi. E magari quelli che invece avevano iniziato con grande ironia, come Bruce Willis, adesso faticano ad averne di fronte all'età. E questo è il segreto di Last Stand, che inizia pure un po' lentamente, quasi un po' troppo intimista, con questo Schwarzenegger che dice che è in borghese solo perché si è messo i mocassini senza calzini sostanzialmente, e che poi, come in un film di Bud Spencer e Terence Hill, alla prima liscia capisci che quello è un film di Schwarzy e che ti divertirai come un matto. Quindi dopo una mezz'oretta diciamo di rodaggio, e vuoi a uno splendido sessantenne come lui lo puoi anche concedere, ti ritrovi di fronte un film, come dici tu, di 30 anni fa, ma un film di 30 anni fa con un protagonista che dice così, fai sembrare noi immigrati feccia, riferendosi a Eduardo Noriega, il cortés super narcotrafficante disegnato su Escobar, o appunto racconta che cos'è la democrazia, cioè fa tutti questi riferimenti, compreso quello alla sua età, quando fa fatica a rialzarsi dopo l'ennesimo volo, che io non riuscirei a fare a 30 anni, figuriamoci lui che eroe è a farlo a 60, e che appunto gli crea qualche problema in più alla spina dorsale. Devo dire che si è scelto un buon regista, un regista che ci ha messo del suo, che fa tantissimi riferimenti al western. Non a caso ci sono scelti una città di confine con il Messico, un posto che ha molti spazi liberi su cui divertirsi, molti campi lunghi da fare, le sparatorie sono molto belle, non sono affatto banali, e devo dire anche due scelte che non mi sembravano straordinarie, come quella di Johnny Knoxville e di Eduardo Noriega, diventano molto positive. Knoxville perché ci mette quella comicità che non fa mai male e che serve in un film d'azione, e Noriega perché è veramente il classico cattivo sbruffone che adesso nessun regista avrebbe il coraggio di mostrarti, così piatto e bidimensionale, ma che qui fa il suo, compreso l'essere la vittima designata di un finale che insomma farà godere molti perché ci riporterà indietro nel tempo, ma che viene anticipato da un inseguimento in un campo di grano quasi battistiano che diverte molto. Insomma, The Last Stand secondo me per gli appassionati di quel genere anni 80 è imperdibile, ma secondo me anche per i loro figli, se vogliono capire come si divertivano i padri un po' male, devo essere sincero, è molto molto utile, quindi lo consiglio assolutamente. Come si sente? Vecchio. E allora, questo era della Stand Arnold Schwarzenegger, seconda traccia del game di oggi. Mi ricordo la mia corsa verso la stazione la sera. Ero stata al cinema come sempre, il film era durato moltissimo, temevo di essere in ritardo. Mentre sbucavo sotto la tettoia, il treno di Shirley se ne allontanava. Guardavo sfilare i suoi finestrini davanti a me, chiedendomi se ci fosse anche lui. E qui roba da intenditori oggi, eh? La Rosa Purpurea, @radio24.it, di che film si tratta, vostro indirizzo, fra poco l'ultima possibilità. E allora parliamo adesso in un paio di minuti di un altro film che arriva nei cinema italiani in questo fine settimana, Impossible, anzi The Impossible con l'articolo. L'impossibile di cui si parla è quello di salvarsi dalla peggior catastrofe naturale che l'uomo ricordi, almeno nell'epoca in cui ne ha dato traccia, ne ha tenuto conto, ovvero lo tsunami, lo ricorderete, che sconvolse nel giorno di Natale del 2004, sconvolse una grandissima fetta dell'Oriente, del Pacifico. Noi abbiamo in questo caso un focus che è quello di Naomi Watts, Ivan McGregor, genitori con tre figli in vacanza in un resort bellissimo in Thailandia, alle prese con il dopo. Anche il prima, anche il momento dell'arrivo dell'onda è raccontato, ripreso con grande drammaticità, ma è soprattutto il dopo che conta. Questa famiglia che si disperde come polvere nelle acque devastanti dello tsunami e che poi in qualche modo cerca e riesce a ritrovarsi. E tutto questo è avvenuto davvero, questa è una storia realmente accaduta. Allora, ascoltiamo una clip e poi ne parliamo con Boris. Ti stai fermo. Sono stato sempre coraggioso, ma ora ho paura. Vieni qui. Ho paura anch'io. E la paura è il sentimento dominante fra Maria e il più grande dei suoi figli, Lucas, dai quali poi partirà una sorta di riscatto e di riunione, mentre dall'altra parte il padre, Ewan McGregor, cerca gli altri figli. Boris, è un genere quello catastrofista, potremmo dire, anche se qui siamo più sul versante del dramma umano, non c'è concessione, non c'è indugio sull'aspetto spettacolare della catastrofe, ma si racconta molto il sentimento. E devo dire che, per assurdo, secondo me il film funziona molto bene fino a quando non si comincia a capire che la famiglia potrà ritrovarsi. Per assurdo, quello che dovrebbe essere il momento in cui esplode il sollievo diventa forse il momento in cui il film diventa più debole. Non so se tu l'hai vista così. No, hai pienamente ragione, perché è talmente bravo Baiona a creare quello stato di tensione post-traumatica. Diciamo che più che un survivor è un post-survivor The Impossible, perché pur raccontando benissimo lo tsunami, devo dire, Clint Eastwood dovrebbe andarsi a nascondere adesso, dopo aver visto come l'ha ricostruito Baiona, con effetti digitali e speciali francamente non eccezionali per budget, ma sicuramente ben usati. E lì l'incredibile forza è raccontare questa storia fortissima, commovente, potente e anche vera, tra l'altro, di questa famiglia che passa dal paradiso all'inferno, cioè ha preso una settimana di vacanza in un paradiso terrestre, sta dentro un resort meraviglioso, non stanno pensando allo stress quotidiano e nel giro di 10 secondi scoprono che tonnellate di acqua si riverseranno su di loro. Ivan McGregor ha la forza e la lucidità per prendere con sé due bambini, il terzo e la moglie invece vengono travolti completamente, e li rivediamo dopo che è successo questo dramma che ha spazzato via 240.000 persone, che ha spazzato via ettari e ettari di terra, che ha cambiato di fatto la geografia del mondo, e noi vediamo questi piccoli puntini, queste parti infinitesimali di questa catastrofe ritrovarsi. E lì c'è uno straordinario Baiona che sa raccontare questo dramma umano e questa complessità meglio di molti altri, in maniera straordinaria. E come dici tu, a me il film è piaciuto molto, devo essere sincero, quindi quello lo trovo un peccato veniale, però se bisogna trovare una parte più debole di questo film, la si trova proprio quando in teoria dovresti avere il momento apicale, cioè il momento in cui finalmente tutto va bene, e perché è talmente bravo nel raccontare il dramma che forse non riesce in tutto e per tutto a raccontare la soluzione dello stesso. A mio parere però è forse la cosa migliore che si sia fatta per raccontare una tragedia di quelle proporzioni, che supera tutto quello che c'è stato nell'immaginario nei nostri tempi, dall'11 settembre ai terremoti in Iran. Insomma, credo che lo tsunami nel nostro immaginario rimanga una delle cose più devastanti che abbiamo visto con i nostri occhi, e Baiona riesce ad essere all'altezza. E allora, grazie Boris per averci raccontato anche di Impossible. Appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima. La Rosa Purpurea. Ecco, c'è la quarta parte della Rosa Purpurea e come ogni settimana andiamo subito nella redazione di Film TV, dove ci aspetta il nostro Giulio San Giorgio per le segnalazioni dai palinsesti in chiaro del digitale terrestre, il grande cinema in televisione della prossima settimana. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Allora, cominciamo Giulio subito con la prima scelta di questa prossima settimana. Martedì 5 febbraio alle 21.15 su Rai 5 c'è Il figlio dei fratelli Dardenne. Esattamente, martedì Il figlio su Rai 5 alle 21.15. Olivier insegna ai ragazzi del riformatorio il mestiere del falegname, ma è ossessionato da Francis, il sedicenne nuovo arrivato, che è il ragazzo che 6 anni prima ha ucciso il figlio di Olivier. I Dardenne fanno un cinema concretissimo, asciutto di qualsiasi orpello, e pedinano i movimenti di Olivier Gourmet senza spiegarne la psicologia con soluzioni facili, ma nutrendosi solo del suo corpo nello spazio, e così prosciugando la narrazione lasciano spazio a quello che è il dilemma etico che cresce nello spettatore. Cinema laico, morale ma non moralistico, veramente molto alto. Ricordiamo l'appuntamento martedì 5 febbraio ore 21.15 su Rai 5, e sempre in prima serata il giorno successivo, mercoledì 6 su Rai Movie alle 21.10, Game Change. Passiamo dal cinema europeo alla televisione americana con Game Change su Rai Movie alle 21.10 di mercoledì, dopo recount sulle fasi dell'elezione di Bush nel 2000 e prima della farsa politica demenziale, candidato a sorpresa, passato in sordina mesi fa nelle nostre sale, il regista di Austin Powers, Jay Roach, affronta la campagna politica statunitense del 2008, parlando soprattutto del rapporto tra pubblico e privato, dell'ascesa politica e della figura di Sarah Palin, interpretata da una grandissima e mimetica Julianne Moore. Prodotto dalla HBO, con il ricorrentemente alla messa in scena del potere a cui l'emittente, questa grande emittente, ci ha abituato, un ritratto insieme umano e crudo che ha creato molte polemiche ed è stato il più grande ascolto nella storia dell'emittente. Grazie Giulio per le segnalazioni sui palinsesti della prossima settimana. Un saluto anche alla redazione di Film TV. Grazie a te Franco, la prossima settimana con le nostre segnalazioni. E allora, archiviate le segnalazioni sui film in televisione, giochiamo per la terza e ultima volta insieme con il film misterioso di oggi. Sono innamorato di lei. Lo so. Mi dica onestamente, mi dica sinceramente se quel che credo è vero. E cosa crede? Che per lei è lo stesso. Anche lei è innamorata. Ma è ridicolo. Perché? La conosco appena. È vero, però mi dica. Sì, è vero. Insomma, abbiamo tenuto le tracce un po' più lunghe perché questa roba, come dicevo, da intenditori siamo, lo sentite anche dall'audio, in un periodo piuttosto lontano. Di che film si tratta? Nome, cognome, indirizzo per provare a partecipare al nostro game per vincere il Blu-ray di questo film. 7 giorni fa avevano giocato con qualcosa di più recente e di molto popolare. Loro volevano ritrovarti solamente per scaricarti nonnina. Oh dai, tu credi che esista una famiglia così squilibrata da scaricare la vecchia nonnina? È davvero assurdo, è davvero... È davvero la mia famiglia. L'era glaciale 4 in 3D, Blu-ray, questo il gioco, il film della scorsa settimana. Lo hanno indovinato per primi, riceveranno appunto questa edizione in Blu-ray Daniele Giannini di Robbiate, provincia di Lecco, e Claudio Rea di Roma. E noi ne parliamo con il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, allora, per l'era glaciale 4, oltre al DVD, sono state rilasciate 2 edizioni Blu-ray ad alta definizione, 2D e 3D. La prima contiene un solo disco in alta definizione, mentre quella 3D aggiunge anche il DVD. Sono entrambe edizioni di eccellente qualità. Il disco 3D è comunque visionabile in 2D per i sistemi non compatibili. Abbiamo audio DTS a 6 canali per l'italiano e addirittura DTS ad alta risoluzione 8 canali per l'inglese. I veri supplementi si trovano all'interno del Blu-ray solo 2D, con approfondimenti sulla realizzazione dell'opera, sequenze tagliate, focus sulla famiglia dei Bradipi e sul topolo scoiattolo Scrat. L'extra più bello è la visione del film in modalità immagine nell'immagine, con ingresso in scena e battute di alcuni dei personaggi del film, e sempre inclusa la copia digitale. Insomma, questa è l'edizione ricchissima dell'Era Glaciale 4, il nostro game della scorsa settimana. Le recensioni invece di questo weekend, le novità, è stato uno dei film più attesi di questo inizio di stagione, forse ha un po' deluso il grosso del pubblico. Ridley Scott tornava con Prometheus. È l'unico sistema galattico che corrisponde. Era così lontano dalla Terra che queste antiche civiltà primitive non avrebbero mai potuto sapere della sua esistenza. Ma il caso vuole che quel sistema abbia un sole molto simile al nostro. E in base ai nostri scanner a lungo raggio sembrava che ci fosse un pianeta. Un pianeta con una luna in grado di sostenere la vita. Siamo su quel pianeta da stamattina. Geroglifici e pitture rupestri che lasciano presagire a una civiltà superiore connessa all'esistenza dell'essere umano spingono la corporazione Weyland a investire nel viaggio dell'astronave Prometheus alla volta di una remota costellazione dove una luna e un sole possono sostenere la vita. Della spedizione scientifica fa parte anche l'androide David, la cui vera missione segreta è mettere a repentaglio non solo le vite degli astronauti, ma quelle dell'umanità stessa. A 33 anni di distanza dal cult alien, il maestro Ridley Scott ne ha realizzato il prequel, tornando sul pianeta dove nel 1979 tutto era cominciato, tra déjà vu e momenti di incredibile tensione, cinema di fantascienza di grande respiro scenografico che meritava di più sotto il profilo dell'originalità. L'edizione è un video da parte di 20th Century Fox Entertainment, DVD, ma soprattutto Blu-ray, alta definizione 2D e 3D, sono entrambe strepitose, audio DTS 6 canali per l'italiano e DTS alta risoluzione addirittura 8 canali per l'inglese. Il disco con la versione 2D offre un doppio commento al film in compagnia del regista e degli sceneggiatori, c'è un terzo Blu-ray che contiene una miriade di supplementi per scoprire i segreti della lavorazione su tutti, un documentario fiume di quasi 4 ore. E questo era Prometheus. Arriva però nelle videoteche anche un capolavoro del 1950 firmato Jean-Pierre Melville, un film seminale che piacque molto a Chabrol e a Truffaut, si intitolava I ragazzi terribili. Elizabeth è una giovane vivace adolescente costretta a badare alla madre malata e al fratello Paul, che ha lasciato la scuola, segnato da un'esperienza violenta di bullismo. Tra morbosità e sogno, Elizabeth e Paul fantasticano di una vita diversa all'interno della loro disordinata stanza. Di a poco Elizabeth trova lavoro come modella, si sposa rimanendo subito vedova facoltosa, portando a vivere con sé il fratello e un'altra coppia di amici. Secondo film di Jean-Pierre Melville del 1950, dal romanzo omonimo di Jean Cocteau, dramma sulle inquietudini giovanili, tanto amato dal maestro della Nouvelle Vague François Truffaut, che al cinema lo vide 25 volte. Da High Division, l'edizione DVD, qualità delle immagini più dignitosa in un glorioso bianco e nero, audio Dolby Digital monofonico, solo in francese con sottotitolo in italiano, e come extra abbiamo solo il trailer. E allora grazie Claudio, questo era I ragazzi terribili, appuntamento alla prossima settimana. Ciao, alla prossima! E siamo in chiusura, allora andiamo a riepilogare i titoli di coda di questa nostra puntata della Rosa Purpurea, ricordandovi la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace per rimanere in contatto con noi per tutta la settimana, dirci la vostra sui film che vedete, ascoltare la puntata in podcast, sapere notizie, classifiche, aggiornamenti giorno per giorno, La Rosa Purpurea Radio 24, e cliccate mi piace. Io ricordo e ringrazio la collaborazione di Giorgio De Luca, redazione di Peter Bescapè in regia, e vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Franco D'Assisi.